Adesso che ci siamo presentati, testo dopo testo, esporremo i nostri fatti. Basta questi testi autocelebrativi. Qui in Italia fai il becchino o non sopravvivi. Qui in Italia la vita è molto strana, gli omicidi in famiglia e il delitto di vetrana. In Italia la crisi e mille altri problemi. Lo ristrattimo come fossimo tanti scemi. Noi resistiamo e restiamo sempre in piedi. Andrangheta, Stato e mafia, bella merda la nostra cara Italia. Per noi, popolo italiano, alcol, sigarette e droga, e noi ci suicidiamo. Noi comandati da puttanieri come tanti, parliamo per riempire i loro nasi bianchi. La nostra bandiera e la nostra rovina, i tre colori, simbolo della morte che si avvicina. Verde, il razzismo della Lega, bianca come la coca che in Italia regna. Rosso come il sangue per stare i coltelli e in prigione i manganelli.